24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. Nuovo sì europeo allo scudo antispread proposto dal premier Mario Monti e aiuti subito per le banche spagnole, 30 miliardi entro fine mese. Dopo 10 ore di negoziato notturno predomina l'Eurogruppo, la linea di Roma, Madrid e Parigi. Sentiamo. Nessuna retromarcia rispetto al summit europeo di fine giugno, pur preceduto da giorni di polemiche, l'Eurogruppo fissa due punti fermi al termine dell'ennesima maratona notturna, in continuità con l'ultimo vertice. Il primo riguarda la Spagna, che ormai nell'occhio del ciclone della speculazione ottiene una prima tranche da 30 miliardi per le proprie banche entro fine luglio. Un via libera finale arriverà tra 10 giorni. In cambio, Madrid dovrà condurre nuovi stress test sui suoi istituti di credito e dovrà profondamente riformarne la supervisione, confermata anche la decisione più importante del vertice. Non appena sarà operativa una supervisione integrata bancaria a livello europeo, il Fondo Salva Stati potrà direttamente ricapitalizzare gli istituti spagnoli. Sempre sul fronte iberico, Madrid ha ottenuto un anno in più fino al 2014 per raggiungere l'obiettivo di riduzione del rapporto deficit-PIL sotto quota 3%. Il secondo punto fermo riguarda l'Italia, con il premier Mario Monti che vince le resistenze del cosiddetto asse nordico e porta a casa la conferma dello scudo antispread. I ministri finanziari europei hanno reso operativa l'intesa che prevede che la BCE divenga agente del Fondo Salva Stati per l'acquisto di bond in funzione calmierante. Entro settembre l'Europa concluderà i negoziati per il piano di salvataggio di Cipro, mentre la Slovenia non pare intenzionata a chiedere aiuti. Infine, l'attuale presidente dell'Eurogruppo Juncker è stato ufficialmente riconfermato fino a fine 2014, ma ufficiosamente sembra intenzionato a dimettersi tra un semestre, tempo necessario a trovare un accordo sul suo successore. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ieri pomeriggio da Bruxelles il premier italiano Mario Monti ha fatto sapere c'è la volontà di salvare l'euro. Da Bruxelles il corrispondente Antonio Poglio Salimbeni. Oggi l'Italia non ha bisogno di un aiuto europeo per raffreddare la corsa degli spread, per frenare i tassi di interesse, ma in futuro chissà, mai dire mai. Mario Monti non ha cambiato valutazione rispetto a qualche giorno fa, ma ha dato un chiaro messaggio politico a uso interno e anche a uso europeo. Molto interessante ciò che ha aggiunto incontrando i giornalisti al termine dell'Ecofin di ieri. Nel giudizio dei mercati sarà sempre più importante, ha detto, quello che succederà dopo il voto e da dicembre in poi peserà per i mercati più di ciò che fa il governo. Se si mettono le due cose insieme, ecco la novità. Quanto più ci sarà incertezza sul quadro politico futuro, sulla capacità della classe dirigente governante che uscirà dalle elezioni, tanto più i mercati premeranno e magari sì che l'Italia potrebbe anche aver bisogno dell'aiuto europeo. Può darsi che questa sia una interpretazione eccessiva, ma certo è una preoccupazione che sembra piuttosto condivisa. Antonio Poglio Salimbeni da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Sentiamo il commento di Daniel Gross, direttore del Center for European Policy Studies di Bruxelles, al microfono di Sebastiano Barisoni. Secondo me l'accordo è stato molto importante, perché la prima volta i capi di Stato hanno riconosciuto che c'è anche il problema della tenuta dei mercati e hanno fatto un passo gigantesco in avanti, dicendo che vorrebbero avere un sistema di supervisione integrato con la banca centrale al capo. E su questo non c'è stato tanto discussione. I finlandesi, gli olandesi a cui si riferiva Monti in particolare, hanno fatto come al solito il gioco della politica interna. Quello lo fa chiunque, cioè tutti gli stati di capo quando tornano a Bruxelles parlano al loro pubblico nazionale. E per il momento non vedo nessuna crepa fondamentale, almeno nell'accordo che c'è stato. Ha ragione Mario Monti quando parla di una fitta selva di ostacoli. Questi ci sono e adesso vanno presi uno dopo l'altro. Wall Street debole ha frenato parzialmente le borse europee, sostenute in mattinata dalle decisioni dell'Eurogruppo sulla Spagna e dall'incremento della produzione industriale in Italia e Regno Unito a maggio. Così, dopo una seduta segnata da forti rialzi, i listini del vecchio continente, pur rimanendo in territorio positivo, nel finale di seduta hanno rallentato e dimezzato di fatto i guadagni. Francoforte, la migliore, ha messo a segno un più 0,79%, Londra un più 0,65%, mentre Parigi ha registrato un più 0,59%. Piazza Affari, a lungo la migliore, ha chiuso con il FTSE MIB più 0,40% dopo aver sfiorato il 2%. Finmeccanica protagonista di Piazza Affari in una seduta in cui l'incremento della produzione industriale italiana a maggio e le decisioni dell'Eurogruppo in soccorso della Spagna hanno sostenuto gli indici azionari. Sotto i riflettori soprattutto i titoli industriali, tra cui appunto Finmeccanica, che ha guadagnato il 3,9%, premiata dalla conferma degli obiettivi per le dismissioni da realizzare entro fine anno e dalle commesse per oltre 300 milioni ottenute dalla controllata Augusta Westland. In evidenza l'intero comparto auto europeo, le Fiat sono salite del 2,6%, le Fiat Industrial del 2,4%, mentre la cassaforte di Casagnelli Exor ha chiuso la giornata con un più 2,3%. Tra i titoli a minore capitalizzazione da segnalare il rialzo del 2,2% per Safilo. Il gruppo veneto dell'occhialeria ha prolungato fino al 2020 l'accordo di licenza con il marchio della moda Hugo Boss. Da Radio Cor per Radio 24, Andrea Fontana. Disoccupazione record nei paesi dell'Eurozona. Secondo l'OCSE, l'organismo internazionale con sede a Parigi, il tasso a maggio 2012 è stato dell'11,1%, il dato più elevato mai registrato. Nell'area dell'euro circa 48 milioni di persone sono senza lavoro, quasi 15 milioni in più rispetto all'inizio della crisi finanziaria, alla fine del 2007. Il tasso più alto è in Spagna, 24,6, seguita dal Portogallo, 15,2, e Irlanda, 14,6%. In Germania disoccupazione stabile al 5,6%. In Italia la disoccupazione dovrebbe salire dal 9,4% nel 2012 al 9,9% nel 2013, prevede l'OCSE, e sono soprattutto i giovani a pagarne il prezzo. L'OCSE definisce epocale il pacchetto di riforme intraprese da Monti, ma invita ad attuarlo subito perché è fondamentale. La disoccupazione giovanile a maggio nell'area OCSE si è attestata oltre il 16%, stabile rispetto a un anno fa. Il tasso varia dall'8% della Germania a oltre il 50% in Grecia e Spagna. Per il segretario dell'OCSE, Angel Gurria, è assolutamente imperativo fare uscire l'Eurozona dalla crisi. E ora andiamo all'estero, in Siria, dove la situazione è sempre critica. Il piano Annan è morto, il piano Annan è vivo. Dopo che lo stesso inviato dell'ONU e della Lega Araba, Kofi Annan, aveva ammesso che il suo primo piano di pace per la Siria era fallito, oggi a Damasco ha annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo con il presidente Bashar Assad da sottoporre all'opposizione. Non se ne conoscono i dettagli, ma c'è da supporre che non preveda l'uscita di Assad, il quale altrimenti non avrebbe dato il suo assenso. Questo piano si scontrerà ancora con la volontà degli insorti, che non vogliono trattare con Bashar. In realtà in Siria la situazione è bloccata, sul campo si continua a combattere e il regime, nonostante le ultime defezioni eccellenti come quella del generale Klass, non ha intenzione di cedere. Ma neppure la Russia e l'Iran sono disposti ad abbandonare il presidente. Per questo la Siria è destinata a rimanere un sanguinoso campo di battaglia dove sopra volteggiano gli stormi della diplomazia lanciando grida che si sperdono nel vento. Molto presto i 75 milioni di persone che ogni anno sono vittime di reati nell'Unione Europea godranno degli stessi diritti fondamentali in qualsiasi paese si trovino. È l'effetto della prima approvazione di una direttiva da parte delle commissioni per le libertà civili e i diritti delle donne dell'Europarlamento. Gli eurodeputati hanno detto sì, quasi all'unanimità, a una legislazione frutto di un accordo con il Consiglio dell'Unione Europea che mira a fornire servizi di sostegno gratuiti alle persone vittime di ogni tipo di reato, dal furto all'aggressione, dalle molestie ai crimini ispirati dall'odio, dagli attacchi terroristici alla tratta di esseri umani. Quando si è vittima di un crimine in un paese estero, le differenze di lingua, cultura e leggi possono creare seri problemi. Il testo approvato garantirà gli stessi diritti, fornendo ad esempio un supporto psicologico e una consulenza legale. Un accento particolare sarà posto alle persone con esigenze specifiche, come le donne vittime di violenza di genere e i bambini. Questa direttiva rappresenta un passo concreto verso la creazione di un'unione in cui gli europei possono far valere i loro diritti ovunque si trovino, ha commentato il commissario alla giustizia Viviane Reding. Il testo dovrà ricevere il via libera della plenaria del Parlamento europeo il prossimo 12 settembre. In chiusura andiamo in Spagna. Madrid dovrà rimettere in libertà al più presto Ines del Rio Prada, membro dell'ETA, in carcere dal 1998. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo, che si è pronunciata su una consolidata giurisprudenza che in Spagna, in nome della pericolosità dell'imputato, consente di allungare la detenzione di persone che altrimenti avrebbero il diritto di tornare liberi. Ines del Rio Prada aveva partecipato ad un attentato che nel 1986 uccise 12 militari della Guardia Civile. Secondo la Corte di Strasburgo, che ha anche disposto un risarcimento di 30.000 euro a favore della donna, la revisione della durata della pena compiuta dai giudici di Madrid è una decisione non regolare. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Terruzzi in regia, grazie a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.